Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che cerca di prefigurare attraverso gli occhi di tutti gli animali un futuro per una società non violenta. In questo numero parleremo di papi e di quaresime, di sperimentazione sugli animali che continua, di forme di resistenza umana e no, di maialini che mostrano la vera vita degli animali nel nostro tempo. Oggi, Papa Francesco, vi chiedo di unirvi a me astenendovi dal consumo di ogni alimento di origine animale per tutto il periodo quaresimale e dando il vostro supporto alla campagna Million Dollar Vegan. Questa singolare proposta è firmata da un attivista appena dodicenne, Genesis Butler, ed è stata pubblicata su alcuni giornali come inserzione a pagamento dall'organizzazione Million Dollar Vegan. Il Papa, se sposasse la dieta vegana, riceverebbe in cambio, come si legge nella lettera aperta, la donazione di $1 milione da parte della Blue Horizon International Foundation, denaro da utilizzare per una o più iniziative benefiche indicate dallo stesso Papa. Million Dollar Vegan è un'organizzazione sostenuta da alcuni personaggi famosi e ha lanciato una campagna a favore dell'alimentazione vegan in 15 paesi simultaneamente. Nella pagina pubblicitaria pubblicata in Italia figurano 8 nomi, alcuni sono celebrità internazionali come Paul McCartney, Moby, Joaquin Phoenix, Woody Harrelson e Brigitte Bardot, e poi gli italiani Massimo Wertmüller, Daniela Poggi, Claudia Zanelli, già conosciuti per il loro impegno in favore degli animali. Genesis Butler è un'attivista giovanissima, protagonista di conferenze pubbliche molto reclamizzate, e nell'immagine pubblicitaria compare con una maglietta che riporta lo slogan della campagna Fight Climate Change with Diet Change, combatti il cambiamento climatico con il cambiamento della dieta. Nel testo della lettera si fa preciso riferimento alle conseguenze ambientali dell'alimentazione corrente e vengono menzionati i vantaggi derivati da una dieta esclusivamente vegetale, vantaggi sia sotto il profilo ecologico, sia per la minore incidenza di malattie per i singoli. Genesis fa riferimento anche alla sofferenza animale e scrive di soffrire personalmente profondamente per i miliardi di animali intrappolati negli allevamenti intensivi, privati, sostiene, della possibilità di vedere luce del sole o di crescere i propri piccoli. Ma perché rivolgersi al Papa? Perché, domandiamoci, puntare sui 40 giorni della Quaresima? La risposta ufficiale è in quanto scritto dal Papa nella sua famosa enciclica ambientalista Laudato Si, che viene menzionata nella lettera. Nell'enciclica il Papa fa riferimento a un certo punto ai necessari cambiamenti negli stili di vita, nelle produzioni e nei consumi. E questo è l'appiglio che la campagna Pro-Vegan sta cercando di mettere a frutto. Ma in verità Laudato Si non trae conclusioni a favore degli animali o dell'alimentazione su base esclusivamente vegetale, pur sviluppando un discorso ecologista molto serio. Però evidentemente Million Dollar Vegan conta sul prestigio morale del Papa, senza tuttavia aspettarsi, è lecito pensarlo, un effettivo appoggio alla campagna. Diciamo che l'obiettivo, più che ottenere una risposta dal pontefice, è fare rumore, grazie all'appello rivolto all'erede di Pietro. L'amministratore delegato di Million Dollar Vegan è Matthew Glover, lo stesso che ha lanciato la campagna Veganuary, cioè l'idea di sperimentare la dieta solo vegetale nel mese di gennaio, magari con la complicità del desiderio di molti di smaltire grassi e tossine accumulati con gli stravizi di fine anno. E questa è una strategia di comunicazione che passa attraverso azioni mediatiche clamorose con il sostegno di very important persons. Difficile dire quanto possano incidere simili iniziative sulla cultura corrente e sulle scelte politiche riguardanti la condizione animale. L'appello al Papa ha sicuramente fatto rumore, ma per la dottrina cattolica, salvo le posizioni di una sparuta minoranza, gli animali umani restano non degni di particolare considerazione. Ed è probabile che la Quaresima di quest'anno non sarà diversa dalle altre. Ma intanto registriamo questa inconsueta iniziativa pubblicitaria che non si limita a fare un appello alla morale al pontefice, ma mette curiosamente sul piatto anche un'ingente somma di denaro da utilizzare, pare di capire, non per gli animali ma per progetti di carità riguardanti la specie umana. Sarebbe interessante capire che fine faranno questi fondi se il Papa non dovesse dare segno di risposta. Bested bones. Bested bones. Long gone victories. La settimana scorsa abbiamo riferito della nuova iniziativa lanciata dai presidenti delle regioni del Nord Italia, che hanno chiesto al Ministero dell'Ambiente una deroga a numerose norme di protezione del lupo e dell'orso, in modo da rendere possibile l'attuazione di piani di abbattimento selettivo di un imprecisato numero di esemplari. A giustificazione di questa irrituale e piuttosto grave richiesta, i presidenti hanno citato i danni arrecati da orsi e lupi a coltivazioni e allevamenti e anche ragioni di sicurezza per le popolazioni. Queste ragioni in verità sono assai poco comprensibili, visto che non si conoscono casi, almeno non negli ultimi due secoli, di persone aggredite da lupi e che i casi di contatto fra orsi e umani sono rarissimi e sempre legate a specifici, imprudenti comportamenti delle persone. Comunque sia, il ministro dell'Ambiente Costa ha dato una prima risposta ai presidenti, e questa risposta è negativa. Orsi e lupi, ha detto, non si uccidono. Il ministro ha annunciato anzi la riproposizione di un piano lupo, con un significativo cambiamento rispetto alla stesura iniziale, a suo tempo bocciata per il no di alcune regioni. La correzione riguarda proprio la possibilità di eliminare parte della popolazione di lupi, ammessa nel vecchio piano, esclusa nel nuovo. La presa di posizione del ministro è stata accolta con sollievo dalle associazioni animaliste e ambientaliste. EMPA, LIPU, LAV, WWF hanno commentato l'annuncio di Costa sostenendo che i presidenti di regione hanno utilizzato nella loro lettera di richiesta delle deroghe alle leggi di protezione di lupi e orsi argomenti demagogici, utili soltanto a raccattare un po' di riscontro popolare. Si tratta, secondo le associazioni, di politici senza scrupoli, disposte a violare le norme poste a tutela degli animali selvatici pur di ottenere qualche consenso popolare. Se il ministro Costa riuscirà a mantenere la barra dritta, la via maestra sarà dunque quella della convivenza, una strada che meriterebbe ad essere più considerata anche in altri ambiti, non solo quando si parla di animali selvatici, non solo quando si parla di animali. demons in my mind. Rescue me, rescue me, rescue me. È il numero enorme di animali utilizzati a fini dichiaratamente scientifici lungo il 2017 nel nostro paese, nei laboratori scientifici del nostro paese. La cifra è stata pubblicata dal Ministero della Salute sulla Gazzetta Ufficiale ed è stata definita dalla LAV, Lega Antivivisezione, allarmante, per quanto il numero assoluto di animali sottoposti a pratiche di sperimentazione sia calato, rispetto all'anno precedente, di circa 30.000 unità. Il rapporto del ministro mostra un aumento nell'utilizzo di cani, sono stati 639 nel 2017, dei macachi, ben 548, mentre erano 454 l'anno prima e 225, quindi meno della metà, nel 2015. La scienza ufficiale, come sappiamo, continua a sostenere, come fa da oltre un secolo a questa parte, che la sperimentazione animale è necessaria per far avanzare la ricerca in materia medica e farmacologica. E con questa presa di posizione intenderebbe tacitare chiunque obietti sulla liceità morale di simili sperimentazioni. E anche le osservazioni e le obiezioni dei ricercatori, e sono sempre di più, che reputano la sperimentazione animale antiquata, inutile e superabile, sono sostanzialmente ignorate. La LAV, con incrollabile tenacia, ha rivolto un appello all'attuale ministra per la salute, Giulia Grillo, affinché assuma l'impegno di invertire questo trend attraverso, scrive la LAV, un concreto sostegno a favore dei metodi di ricerca che non richiedono l'impiego di animali e favorendo la nostra competitività sul piano scientifico internazionale e archiviando un metodo di ricerca, dice la LAV, quello sugli animali, che non è mai stato validato scientificamente e che non potrà mai essere validato, aggiungiamo noi, sul piano etico. I don't believe everything happens for a reason. To us romantics out here, that amounts to high treason. I don't go in for your star-crossed lovers. Heart of a skeptic, there's a question that still hovers near. For it begs the question, how did I ever find you? Now you got me writing love songs, the common refrain like this one here, baby. Questa trasmissione si definisce animalista, antispecista e vegan, anche se forse è l'espressione più sintetica in grado di esprimere la nostra visione del mondo, la nostra aspirazione, riguarda l'idea di una società ispirata al principio della non violenza. Una società da costruire attraverso la lotta culturale e politica, con metodi non violenti. La non violenza è un'aspirazione, un traguardo, un metodo, e dal nostro punto di vista si interseca con lo sviluppo del pensiero antispecista. Perciò da qualche tempo abbiamo avviato un percorso di approfondimento attorno a questo tema, l'antispecismo, una filosofia, un pensiero, una prospettiva sociale germogliata sulle spoglie delle tradizionali concezioni animaliste. Un pensiero che sta conoscendo un'interessante fase di crescita. Fra i protagonisti di questo processo culturale in corso c'è sicuramente la rivista Liberazioni, curata dall'associazione Oltre la Specie. È uscito da poco il numero invernale di questa rivista trimestrale. Fra i numerosi articoli di questo numero segnaliamo quello di Francesca Timeto, che parla di persone umane e piccioni. L'articolo si intitola L'arto mancante, una breve storia socioculturale dei piccioni e dei loro umani. Segnaliamo poi l'articolo di Alessandra Galbiati, che analizza l'evoluzione della parola vegan, che ha perso, a suo avviso, col tempo il suo carattere rivoluzionario e perciò oggi sarebbe da mettere da parte. E ancora c'è un articolo di Davide Maiocchi che si intitola Intervista di un pet a un cane randagio primitivo. Sono solo alcuni degli spunti presenti nel numero 35 di Liberazione. Sul nostro sito potrete ascoltare un intervento audio di presentazione del nuovo numero della rivista. Torniamo alle nostre piccole lezioni di antispecismo, piccole naturalmente per la durata, dettata dai tempi radiofonici, ma non piccole per il contenuto e per la possibilità che hanno di ispirare pensieri nuovi e forse anche azioni nuove. Questa volta Luigia Marturano ci parla di resistenza, animale e no. Maramau, perché sei morto? L'antispecismo spiegato a mia nonna. Resistere viene dal latino re, che vuol dire indietro, e da assistere, che vuol dire fermare, cioè fermare respingendo, non cedere a una forza o a una spinta. Le accezioni sono naturalmente molte, ma resistenza richiama fondamentalmente il concetto stesso di esistenza, o meglio, la realtà dell'esistere. Resistere è d'altra parte un moto intrinseco dell'esistenza. Esistere non è forse cercare di restare aggrappati, di condensare qualcosa attorno al proprio nucleo vitale? Riuscire ad addensarlo nelle azioni essenziali e nei piaceri, allontanando invece tutto ciò che lo compromette? In Verde brillante di Mancuso e Viola, un libro davvero molto interessante, si racconta di quel cervello sotterraneo moltiplicato per ogni apice radicale che è il conduttore della vita delle piante. La conduce perché induce i loro comportamenti, non solo la capacità di adattarsi, ma anche azioni opportunistiche che ne tutelano la vita e la riproduzione. Cerchiamo ora proprio di restare in quel nucleo primo di esistenza che appartiene a ogni vivente, nelle infinite variazioni della percezione di sé, del mondo e delle relazioni. È nello spazio minuscolo di questo nucleo, siamo noi un bisonte, un umano, un'ape o un altro individuo che si sposta, che sta la nostra parentela più profonda. Lì le parole non ci sono più. C'è solo un respiro, solo aria che ci attraversa. Per riconoscerci, però, dobbiamo scoprire e mantenere l'attitudine a guardarci negli occhi. I meccanismi di sopraffazione che ci circondano cercano invece di mantenerceli chiusi o ci consentono di aprirli solo a metà. Si nutrono di distanze e di rinnegamenti. Quando i corpi esprimono atti di resistenza, proprio perché questi gesti ci accomunano e rendono più facile il riconoscimento delle istanze altrui, scatta immediatamente la repressione, ma anche la solidarietà. Che differenza c'è fra un bambino che punta i piedi per un suo desiderio o malessere da esprimere, un cane tirato al guinzaglio o un altro animale trascinato contro la sua volontà? Non è la volontà a essere o no presente, è il diritto di cittadinanza che noi le riconosciamo o meno. La singola volontà è clandestina, è extracomunitaria, è in attesa di diritto d'asilo, di permesso di soggiorno, oppure semplicemente non conta. I sistemi di controllo e di annientamento della volontà costruiscono incessantemente i loro strumenti e li affinano. Non c'è epoca che da 10.000 anni a questa parte, da quando è iniziata la domesticazione, non ne abbia prodotti. Che siano corde, bastoni, catene e manette, pungoli elettrici, corridoi di contenzione, briglie, morsi, bisturi o camicie di forza. Chi più ne ha, più ne metta. E ne mette, purtroppo. Ma il potere genera resistenza, come diceva Foucault, perché la volontà è radicata nel nucleo più intimo di ogni esistenza. Non può tacere. Conoscerà i gradi diversi della consapevolezza? Potrà resistere armata in un bosco oppure nascondersi fra le foglie? Sarà braccata, fucilata, fatta a pezzi, ma sarà sempre pronta a rinascere. Le storie di resistenza sono tante quanti sono i viventi e per la maggior parte non giungono alle cronache. Come sappiamo bene, negli ultimi tempi il mare è teatro di strenue, disperate resistenze. Quelle umane ci sono tristemente note, anche se moltissime si sono perse fra le onde e nessuno le racconterà mai. Ma un pattino scomparso da 20 miglia e ritrovato a riva a circa 25 km di distanza sulla spiaggia francese di Cap Martin fa pensare che qualcuno ce l'abbia fatta a superare la frontiera. E anche un toro ce l'ha fatta a evadere attraverso il mare. È fuggito poco tempo fa da un mercato in Turchia. Ha nuotato a lungo ed è stato trovato 3 giorni dopo a 23 km di distanza. Ora si chiama Ferdinand ed è salvo in un rifugio. There was a time when we walked by the docks. I told you I'd need you all of my life. I'm watching the tugs rolling by together. Do you remember? Do you remember the lights on the shore? How they reflected the rain on the road? I believe that you loved me alone. It was real. Do you remember? Now and then I see your face. I've been wanting a loving embrace. I've been looking for love, but it gets me nowhere. Oh yeah, yeah. Future burning bright as we watch the moon rolling out to sea. Do you remember? Those days are a race for my mind. Yeah, I've left all those old days behind, but still I remember your face forever, forever. Ogni settimana abbiamo chiesto al nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni di proporre una ricetta legata a una delle notizie della puntata. Gabriele Palloni, lo ricordiamo, è autore del libro La cucina regionale italiana vegana, edito da Newton Couto. Sentiamo che cosa ha pensato per noi questa settimana. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. One fine morning I woke up early. Bella ciao. Se c'è un piatto simbolo della resistenza è la pasta asciutta cacio e pepe, offerta dalla famiglia Cervi agli abitanti di Campegine, piccolo borgo emiliano, per festeggiare la caduta del fascismo. E allora, per celebrare la resistenza antispecista, la rivisitiamo in chiave cruelty free. Ecco la ricetta per gli spaghetti cashews e pepe. Gli ingredienti per 4 persone sono 400 g di spaghetti, 100 g di anacardi, 1 litro di latte di soia, 20 ml di aceto di mele, del pepe nero, sale, olio extravergine di oliva e un cucchiaio di lievito alimentare scaglia. Oh, partigiano, please take me with you. Bella ciao, bella ciao. Mettete in ammollo gli anacardi per qualche ora, meglio se tutta la notte. A parte, portate il latte di soia ad ebollizione, quindi toglietelo dal fuoco e fatelo cagliare con l'aceto di mele. Lasciatelo riposare nel siero per una mezz'ora, quindi scolate con un colino a trama fitta e sciacquate delicatamente sotto l'acqua fredda. Frullate gli anacardi scolati dall'acqua di ammollo con un mixer. Unite il taglio di latte di soia, 2 cucchiai di olio extravergine, il lievito alimentare, sale e abbondante pepe. Frullate fino ad ottenere una crema bella liscia. Fate cuocere gli spaghetti in acqua salata e scolate al dente. Condite con la crema di anacardi e, se necessario, allungate con poca acqua di cottura della pasta. Servite caldi con una macinata di pepe nero fresco. Keep on looking, you keep on searching, keep on moving, and you get a little further. Keep on trusting, you keep on hoping, keep on facing your fears, just to keep on growing. Just try, you just try. Keep on wondering, you keep on asking, keep on reaching, keep on taking chances, keep on longing. Per concludere la puntata, un consiglio di visione. Il cortometraggio Mons, 6 mesi, dura circa 1 minuto e mezzo, ha vinto quest'anno il Panda Award, prestigioso concorso dedicato ai film riguardanti la natura. Il video è firmato dalla regista olandese Eline Helena Schellekens e racconta la vita negli allevamenti, se ancora di vita è possibile parlare, dal punto di vista di un maialino, dalla nascita all'uccisione nell'arco, appunto, di 6 mesi. Nel video si vede il maialino neonato, i trattamenti sanitari che subisce, la convivenza con altri individui in spazi angusti, l'inferno delle gabbie, la vita ridotta a sofferenza continua. Niente di nuovo, se vogliamo, ma anche questo è un modo per spingere tutti noi a non mettere dietro le spalle l'evidenza della condizione animale nella società odierna. Il cortometraggio, che può essere visto da tutti, non presenta immagini cruente, sarà pubblicato fino al 18 febbraio sui siti delle 140 associazioni che sostengono l'iniziativa dei cittadini europei contro le gabbie negli allevamenti. È l'iniziativa denominata End the Cage Age. Basta con l'epoca delle gabbie. Un messaggio che ci sentiamo di sposare. Keep embracing each day, you keep on yearning, keep on making mistakes, just to keep on learning, keep on giving, you keep on wanting, keep on fighting, just get up every morning and try. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Vi ricordiamo che Restiamo Animali è una trasmissione curata da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e dal sottoscritto Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.